Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Did you know if you mix equal parts of gasoline and frozen orange juice concentrate, you can make napalm? No, I did not know that. Is that true? That's right. One can make all kinds of explosives using simple household items. Really? If one was so inclined. La notte e dei camionisti, pensava Maya, ciondolando tra il sonno e la veglia sul sedile nella cabina di guida. Se riusciva a tenere gli occhi semiaperti per qualche secondo, vedeva sulla sinistra dell'autostrada costellazioni di luci simili a bizzarri alberi di Natale, o a giganteschi dadi da gioco con 4, 6, 8 punti o più, scivolare incontro dall'oscurità e piccole luci rosse serpeggiare dolcemente davanti a lei, a due, in una lunga fila, a tratti sparendo per ricomparire l'attimo dopo nel buio. Il rombo del pesante motore era dentro di lei. Questo era l'incipit delle vie dell'immaginazione di Ella Hasse. Non solo si è aperta la seconda parte di Eclettica, ma è già quasi arrivata anche al suo ottavo minuto, anzi ci arriva fra pochissimi secondi, visto che ha un display precisissimo qua sotto i miei occhi. Vediamo di andare con ordine. Oltre allo spezzone cinematografico della settimana in questione, potreste esserci già arrivati di quale film si tratta, che qualche anno fa già passò come spezzone all'interno di Eclettica. Magari con il prossimo che comparirà in questa seconda parte dovreste avere le idee completamente chiare. A parte quello, ci siamo ascoltati gli incipit che caratterizzano perlomeno le prime tre parti di questa settimana, quelli di Ella Haas, e poi la musica nuova dei Richmond Fontaine, band di Portland, Oregon, che però ha deciso per il suo settimo album di spostarsi nel deserto, quello dell'Arizona, e per la El Cortez Records esce con un album che sa molto di Giant Sand, sa molto di Calexico, un album dal titolo 13 Cities, dal quale ci siamo ascoltati una traccia solo strumentale, El Tiradito, che ha aperto questa seconda parte di Eclettica, per poi ritornare alla Warp Records, di cui già settimana scorsa ci eravamo ascoltati l'album Body Riddle da parte di Clark, con il brano dal titolo Ted. E per ritornare sulle scelte fatte per la prima volta, se non ricordo male, la settimana scorsa, andiamo di nuovo negli Stati Uniti, dopo essere passati dall'Inghilterra con Clark, per ascoltare una nuova prova che proviene dalla band di Athens, Georgia, che sembra provenire dal Canada, ma invece è completamente del sud degli Stati Uniti, assolutamente del sud degli Stati Uniti, gli Off Montreal, che incidono per la Polyvinyl Records e sono usciti con un nuovissimo album dal quale noi ci ascoltiamo la penultima traccia, She's a Rejecter. No! Wanderlust, e questo è il titolo del brano degli Urlaubin Polen che ci stiamo ascoltando dalla scorsa settimana qua all'interno di Eclettica, una delle tante produzioni Tomblab, una delle produzioni Tomblab che in questo periodo mi stanno colpendo. Non è che io intraprendo rapporti con un'etichetta piuttosto che con un'altra, non cominciate a pensare male, però ci sono periodi in cui un'etichetta mi soddisfa di più, proprio così, solo all'ascolto, senza nessun altro fattore che possa influenzare le mie scelte. Health and Welfare, il titolo del dell'album della band, che era già uscito da un po' di tempo a questa parte, qualche mese, ma qua in Italia l'abbiamo ricevuto veramente da pochissime settimane. Eclettica, che prosegue con un'atmosfera che non è che si discostino poi tanto da queste, anche se alle origini erano un po' più diverse. Sto parlando del nuovo disco che esce a nome Minus the Bear, band statunitense, quintetto statunitense che incide per la Suicide Squeeze, che era uscito con un album qualche mese fa, che ora viene reinterpretato, viene remixato, viene rifatto, come capiremo anche dal sottotitolo del brano che ci stiamo per ascoltare. Brano che originariamente si chiamava Drilling e che in questo album dal titolo Interpretaciones del Oso ci riascoltiamo nella versione POS Redo, quindi proprio un rifacimento da parte del rapper POS. Constant buzz, staring at the ocean, crashing on all the rocks below. Coast in this foreign home. And I don't say anything, 'cause this may be a dream. And we come to this place like two convicts that have escaped from the prison of every day. And for the moment we'll have our stay. So me to hit you? That's right. What, like in the face? Surprise me. Thank you.